versione di Oscar Giannino. This is the end. Buongiorno cari ascoltatori, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia qui alla versione di Oscar. Vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it, anzi la versione di Oscar, non versione di Oscar da solo. Buon 2 giugno e buon festa della Repubblica a tutti. È una festa della Repubblica che nei commenti del dibattito è ancora, come era inevitabile, molto appesantita, per così dire, dalle polemiche interpretative e dalle polemiche tra parti politiche dopo le elezioni regionali. Però in questa giornata io ho deciso di occuparmi di un tema sul quale colpevolmente, viste le tantissime mail che ricevo da voi ascoltatori, è un po' tanto che non ce ne occupiamo, e quindi credo che sia giusto mettere in calendario una serie di trasmissioni che si occupano di una questione che è centrale per tutti voi, riguarda i vostri risparmi e molti allarmi che voi avete sul sistema bancario, su cosa vuol dire essere esposti alle nuove regole dei fallimenti bancari che entrano in vigore secondo le norme europee anche a casa nostra, e quindi sopra i 100.000 euro di deposito si rischia, in caso di default, di compartecipare il cosiddetto bail-in, perché molti di voi segnalano che in realtà le banche non vi hanno minimamente informato sulle conseguenze e i rischi di questa esposizione. Poi altri chiedono cosa succede con le popolari che si devono trasformare in SPA, si accorpano, cosa succede ai MPS e così via. Ma molti poi chiedono cosa significa e cosa bisogna aspettarsi, il prelievo crescente su una parte fondamentale del vostro patrimonio, cioè quella dei mattoni. E tanti altri chiedono anche: ma faccio bene ad andare sul risparmio gestito? Allora cominciamo proprio da questo tema, perché il risparmio gestito è diventata diciamo il canale di utilizzo dei risparmi con più boom da questo punto di vista, nel senso che se solo nel primo trimestre pensate, la raccolta del risparmio gestito ha visto più 52 miliardi, a marzo più 23 miliardi, stiamo parlando di oltre 700 miliardi di fondi aperti, e guardando l'intera complessiva massa amministrata risparmio gestito siamo a 1700 miliardi. Siamo un paese che da questo punto di vista sta cambiando significativamente, e per fortuna, le sue modalità di investimento del risparmio, e in quest'ultimo anno e mezzo sono cadute verticalmente quelle obbligazioni bancarie che voi vi compravate regolarmente agli sportelli delle vostre banche. Eravamo diventati il paese avanzato con la più alta percentuale sul portafoglio delle famiglie di obbligazioni bancarie, e lo facevate senza, voglio sperare, troppo capire di prendere una doppia scommessa, sia quella del rischio bancario sia quella del rischio sovrano, vista la quantità di titoli pubblici di cui la pancia delle banche italiane continua a essere piena. Eppure lo facevate, e questa mole di obbligazioni bancarie si sta disintermediando. È un problema anche per le banche. Molti di voi sono iniziati a entrare in tensione, vista la raffica di aumenti di capitale del 2014 che l'Europa e non la Banca d'Italia ci ha imposto. Molti di voi hanno iniziato a capire che con 12 punti di PIL di crediti deteriorati le banche non trasmettono i segnali positivi della politica monetaria lasca agli impieghi, alle famiglie e alle imprese, che infatti restano col segno meno, sia pur meno accentuato di quanto non sia negli ultimi anni, ma comunque sia restiamo ancora in una condizione di restrizione di credito. E da questo punto di vista molti fanno domande su quanto costa, quanto è giusto il costo del risparmio gestito. Ecco, allora, proprio su questo punto, per consentirvi una riflessione spassionata, per così dire, qualche giorno fa, il 28 maggio per la precisione, io ho visto un intervento in rete di una persona molto competente e che io stimo molto, Dani, a dire la verità. Il suo nome è Raffaele Zenti, è uno dei fondatori di Advice Only, che è una piattaforma di incrocio informativo ma anche di domanda e offerta sul risparmio, che io mi sento spassionatamente di consigliarvi in rete. Ha una lunghissima esperienza professionale maturata in Allianz Asset Management, quindi lui è un portfolio manager, e ma non è solo, per così dire, un professionista praticone, cioè, ha una solidissima preparazione accademica, perché si è laureato, sembra che chissà quanti anni abbia, invece non è così perché è giovane, ma si è laureato in scienze economiche con indirizzo quantitativo statistico all'Università di Torino, quindi insomma è uno quadrato ed è uno che, sono tra i fondatori appunto di questo Advice Only, diciamo è meno gravato di altri, a mio giudizio, dal conflitto di interesse che è inevitabile quando si tratta di reti e promotori rispetto al cliente. Ecco, qualche giorno fa Raffaele Zenti ha scritto un articolo in cui ha provato a stimare qual è il costo sul totale delle masse amministrate del risparmio gestito che va alla remunerazione delle reti dei gestori, quindi qual è il costo dato dalla somma delle commissioni e delle cosiddette retrocessioni. Quell'articolo mi è piaciuto molto e gli ho chiesto oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, di spiegarvelo in maniera non tecnica, fuori dai denti, però per capire e darvi qualche arma per fare qualche riflessione intorno alle scelte che ciascuno di voi fa nel vostro portafoglio. Intanto buon pomeriggio e grazie a Raffaele Zenti. Grazie dell'ospitalità e buon pomeriggio a voi. Allora, arrivi a una cifra, perché questa cifra che fai, sommando le diverse voci, è di circa 23 miliardi di euro l'anno, è così? È così, esattamente, che è, attenzione, 23 miliardi messi così magari non sfugge l'entità, sono circa 1,5 punti di PIL nominale dell'Italia, circa il 50% di quanto gli italiani hanno risparmiato in totale nel 2013, quindi sono numeri importanti, ecco, 23 miliardi è un numero grosso. Allora, iniziamo a spiegare come arrivi a calcolare tra commissioni e retrocessioni questi 23 miliardi all'industria del risparmio gestito. Sì, qui si tratta di capire, premessa, la natura del problema. La natura del problema è che i prodotti finanziari vengono venduti ai risparmiatori ha un costo e questo costo, come chiunque lavori nel settore sa, è molto elevato. E perché è elevato? Perché circa 2/3 delle commissioni che vengono pagate dai risparmiatori sui prodotti di investimento come fondi comuni, SICAV, polizze unit linked, circa 2/3 vengono retrocessi, si chiamano retrocessioni ai venditori, quindi ai cosiddetti collocatori, che sono sostanzialmente quelli che vi vendono il prodotto, può essere uno sportello bancario, può essere un private banker, può essere un promotore finanziario. Ci sono anche altre forme di investimento, gli investimenti si possono comprare in borsa, però se parliamo di risparmio gestito tradizionale si compra normalmente con queste modalità. E diciamo 2/3 delle commissioni totali sulla massa dei prodotti presenti in Italia equivalgono circa a 23 miliardi. Come ci sono arrivato? Bisogna vedere qual è la massa globale di attivi gestiti, quindi parliamo dell'aggregato di fondi comuni venduti in Italia, di polizze unit linked, di altri prodotti assicurativi, quali ad esempio le gestioni separate, le gestioni patrimoniali sia in fondi o in titoli. Quindi aggregando questi dati che ho preso da Sogestioni, quindi l'associazione di categoria dei gestori, si ha la base di partenza. Poi bisogna applicare il tasso commissionale che viene prelevato ogni anno, perché questi 23 miliardi sono all'anno, sì. Quindi ogni anno viene prelevata una fetta di questi risparmi e bisogna calcolare una commissione media, non facilissima da calcolare. Se sui fondi comuni e le SICAV, strumenti molto trasparenti, i dati sono facilmente reperibili, su altri prodotti come le gestioni patrimoniali e le polizze di unit linked, che sono dei prodotti un po' opachi, non è così facile. Quindi mi sono dovuto inventare, ecco, dei campionamenti se mi un permetti, po' particolari. Se mi permetti, a proposito proprio delle unit linked, siccome sono una bella parte del patrimonio gestito, perché stiamo parlando più di 1/3, io mi chiedo molto spesso quanto il risparmiatore ordinario, se non è dotato di un minimo almeno di, diciamo, cognizione eccetera eccetera, sia davvero in grado di capire i prospetti che sono allegati al unit linked. Questo è da sempre un mio problema. Nella tua esperienza il risparmiatore è consapevole sul unit linked, perché è veramente opaco, talvolta opacissimo. Sì, nella mia esperienza sono pochissimi quelli davvero coscienti di che cosa hanno acquistato, anzi direi la stragrande maggioranza non ha idea e lo scopre a posteriori, cioè scopre a posteriori che ha comprato un prodotto difficile da illiquido, difficile da vendere, comunque la polizza di unit link va portata come minimo a una certa scadenza, se no saranno delle grosse penalità di uscita, con dei costi molto elevati di cui normalmente si rende conto soltanto alla fine quando vede che la performance è comunque bassa. Normalmente viene un po', passatemi il termine, fregato dall'idea che spesso la polizza di unit link o altri prodotti di questo genere hanno la clausola del capitale garantito, quindi dicono tu non perderai il tuo capitale, però è anche vero che normalmente otterrai pochissimo di più e quindi hanno delle performance spesso deludenti. E diciamo che alle reti dei collocatori le unit link piacciono perché sono quelli con le retrocessioni più alte e facili da vendere al cliente un po' sprovveduto, perché si continua a insistere sul vecchio tasto del rendimento senza rischio. In realtà poi non è così, però lo dico solo per consentire a chi è a casa di farsi una riflessione. Comunque ti ho interrotto. È giusto. No, è giusto, e sottolineo un'altra cosa, che vendono spesso l'idea del che è un prodotto assicurativo, quindi c'è anche un'assicurazione caso vita, caso morte. Normalmente costa molto meno fare gli investimenti finanziari da una parte e comprarsi una polizza dall'altra. Pura dall'altra, normalmente molto più efficace anche come copertura assicurativa a parità di prezzo. Ma quindi dicevamo, quindi bisogna calcolare avere la massa di risparmio gestito in Italia, la quantità di commissioni pagate su di esse, e poi calcolare una percentuale di retrocessione. Quindi io ho reperito questi dati anche in maniera non banale, perché alcuni prodotti non sono esattamente trasparenti, ho utilizzato una procedura statistica che non vi sto a tediare, comunque abbastanza articolata, per avere una stima, quindi è una stima altamente perfettibile, ma piuttosto solida, perché anche se uno prova a calcolare in un altro modo, grosso modo vengono questi numeri qui, quindi stiamo parlando di cifre sicuramente superiori ai 20 miliardi di euro, e 23 miliardi è una cifra che secondo me è sottostimata perché mancano dal computo i certificati, mancano dal computo le obbligazioni bancarie, che è vero, sì, sono diminuite nei portafogli dei clienti, ma ci sono ancora, quindi mancano una serie di prodotti, mancano le performance fee, è vero che normalmente le reti di vendita non vengono remunerate con le performance fee, però mancano anche le commissioni d'ingresso, quindi una serie di costi in più mancano, e quindi credo che questa sia una stima bassa di questo ammontare. Allora, la prima domanda: siccome si arriva a una media, sia pur calcolata con ogni ragionevole probabilità per difetto, come hai detto tu, intorno a più o meno il 2% di commissione media retrocessa, no? È così? Ho capito bene quello che... Allora, viene circa 2% la commissione media che grava sui prodotti, e circa 1,3-1,4 la quantità retrocessa, perché appunto è circa 2/3 della commissione totale. Allora, la prima domanda è: nel conflitto di interessi, diciamo così, tra reti e il collocatore del risparmio gestito e l'interesse del risparmiatore che fa questa scelta, questa percentuale è una percentuale, per così dire, fisiologica, che ci sta come remunerazione delle reti del collocatore, oppure rivela una asimmetria informativa ancora molto forte e bisognerebbe lavorarci sopra, perché significa in realtà risparmio mangiato agli italiani? No, è una percentuale che secondo me è decisamente alta, e non solo secondo me, perché un problema analogo c'è negli Stati Uniti, soprattutto con il risparmio previdenziale, e addirittura su stimolo dello stesso presidente Obama è stato fatto uno studio che poi ha dato luogo a un intervento normativo per appunto calmierare, cercare di regolamentare meglio questo tipo di conflitto di interesse. Ma anche a livello europeo c'è una normativa che andrà in vigore tra 2 anni, che si chiama MiFID 2, che ha come, diciamo, al cuore, direi, o comunque uno dei cuori della normativa è proprio questo, cioè abbattere il conflitto di interesse. La simmetria informativa è fortissima. Quello che dicevamo prima sulle polizze unit linked ne testimonianza, perché appunto se dobbiamo raccontare queste cose vuol dire che la gente non lo sa, e se non lo sa vuol dire che c'è asimmetria informativa. Quindi è giusto che chi vende prodotti sia remunerato, è giusto che si faccia consulenza sui prodotti, però tutto deve essere molto trasparente, cioè io devo sapere che il prodotto costa 0,20-0,30 punti base, quindi parliamo di una frazione di punto percentuale, e che poi mi viene venduto a un multiplo che è 5-10 volte tanto. Esatto. A questo punto mi devo essere pienamente cosciente di questo e dire sì, mi sta bene, no, non mi sta bene, e se non mi sta bene investo, posso investire in, investimenti differenti. Allora, esempio... proprio su questo ti fermo, perché torniamo tra 60 secondi dopo l'informazione stradale, perché la questione è capire, cari risparmiatori, che voi avete in realtà un'ampia offerta di prodotti in cui il tasso medio di remunerazione che dovete, insomma, la commissione, la retrocessione, è significativamente più basso. Quindi ne parliamo un secondo, al ritorno tra 60 secondi. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati dopo l'informazione stradale. La versione di Oscar, oggi 2 giugno, festa della Repubblica, buona Repubblica a tutti. E proprio per questo stiamo parlando di uno dei pilastri anche costituzionalmente da tutelare, che è il risparmio. E ho deciso di fare questa puntata sul risparmio gestito, che è, diciamo, la parte più boom del fatto che gli italiani abbiano comunque una propensione al risparmio che ha ripreso a crescere sul reddito disponibile, che invece scendeva. Espressione della paura, dice il Presidente del Consiglio, espressione del fatto che gli italiani non si fidano, per così dire, non si fidano, e hanno capito dall'aumento, per esempio, delle imposte locali che consumare una parte più rilevante del reddito disponibile non serve molto, perché purtroppo poi le imposte locali continuano ad aumentare, e continuano ad aumentare quelli sugli immobili, che hanno, come testimonia la Banca d'Italia, avuto un effetto di depressione del valore reale, cioè tradotto a prezzi costanti, del totale ricchezza degli italiani, proprio per la componente del patrimonio immobiliare, che, ripeto, dal 2011 è passato da a meno di 10 miliardi di euro l'anno a 27 miliardi di euro nel 2014 di prelievo, e questo ha avuto il suo bel effetto sul mattone, di cui colpevolmente, secondo me, un po' voi avevate continuato a rimpinguarvi il portafoglio, perché vi hanno raccontato per anni che tanto l'immobiliare aveva solo il segno più, che non era vero che c'è un segno di rottura, di caduta del reddito di un paese sotto il quale tutti i prezzi si riallineano, compresi quelli del mattone, e voi ci avete creduto per tanti anni, tranne scoprire poi che non è così. E adesso, boom, del risparmio gestito. E proprio sul risparmio gestito è con noi Raffaele Zenti, che insieme a quelli di Advice Only continua a dirvi: andate a verificare tanti interventi utili per voi risparmiatori che si trovano su quella piattaforma, che ha fatto un conto spannometrico, ma abbastanza preciso, di qual è la somma di commissioni e retrocessioni che vanno all'industria del risparmio gestito sui vostri soldi. E arriviamo a un punto e mezzo di PIL l'anno, tanti soldi, forse non giustificati in termini di criteri di efficienza, e di lì che le banche fanno un margine che hanno perso sia sul margine di intermediazione che sull'attività ordinaria, e quindi voi dovete sapere e scegliere. Alcuni mi hanno chiesto nel frattempo: ma forse una bella patrimoniale? Guardate, chi vi dice che una patrimoniale raddrizza l'Italia tende a scontare che voi probabilmente non sapete che siamo già nella parte alta del ranking dei paesi per prelievo patrimoniale annuale. Se andate sul MEF, trovate un confronto internazionale, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, scusatemi, trovate una tabella sul confronto internazionale del prelievo sul patrimonio in percentuale sul PIL. L'Italia nel 2013, nel 2014 è salito ulteriormente di una frazione di punto, era al 2,5% in termini di PIL, il prelievo sul patrimonio. Guardate che in Germania siamo allo 0,8% rispetto al nostro 2,5%, in Svezia siamo all'1% rispetto al nostro 2,5%, in Finlandia all'1,2%, cioè meno della metà che in Italia, in Norvegia siamo a meno della metà che in Italia, e così via. In Spagna siamo all'1,7% rispetto al nostro 2,5%, quindi abbatterci in termini di prelievo ordinario già oggi sul patrimonio ci sono gli Stati Uniti, che sono quasi al 2,7% rispetto al nostro 2,5%, il Canada, la Francia è al 3,8%, e il Regno Unito, che è oltre il 4%. Ma insomma, noi di prelievo patrimoniale ne abbiamo già parecchio, non poco. Allora, con Raffaele Zenti eravamo arrivati al punto di tentare di farvi ricordare che esistono possibilità di prodotti finanziari che hanno costitutivamente dei costi di commissione e di gestione più bassi. Quali sono, Raffaele, per esempio? Li cito non in ordine di importanza, ma in ordine casuale. Sono ETF, che sono sostanzialmente dei fondi, un tipo di fondo quotato in borsa che si può comprare attraverso qualsiasi intermediario finanziario, e consentono di investire praticamente ovunque con commissioni molto basse, perché vanno soltanto a remunerare il gestore. Ecco, io questo vorrei dirlo, sottolineo che le società di gestione da tutto ciò guadagnano tutto sommato le briciole, ma nonostante ciò sono inutili. Quindi per questo il costo è molto alto di tutto questo ambaradan, perché in realtà si può vivere anche bene gravando i risparmiatori di molto meno. Comunque, tornando all'elenco dei prodotti, dicevamo gli ETF, poi da poco ci sono i fondi quotati in borsa, quindi fondi comuni attivi. Ecco, gli ETF sono degli investimenti passivi che cercano semplicemente di replicare degli indici finanziari, quindi indici azionari, indici di obbligazioni, indici di merci. Mentre invece ci sono anche da poco tempo, da gennaio, i fondi attivi quotati in borsa, quindi un numero che penso sarà crescente di società di gestione quoterà i fondi in borsa a costi, diciamo, di produzione, con un piccolo margine a costi di produzione. Alcune società di gestione hanno collocano direttamente tramite il loro sito i fondi con delle classi commissionali, appunto, destinate all'acquisto diretto, e pertanto molto più dai costi molto più contenute. Quindi, diciamo, normalmente si passa dalla quotazione e o dalla tecnologia, dal web per risparmiare, che è sicuramente un paradigma vincente, perché ormai la musica l'ascoltiamo a gratis o a un prezzo basso se vogliamo evitare la pubblicità su web, i viaggi li compriamo molto spesso su web e via dicendo, i libri li compriamo molto spesso su web con un risparmio importante. Quindi non si vede perché anche il mondo del risparmio non debba andare in quella direzione, il che non vuol dire che tutti debbano comprare fondi passivi come gli ETF o fondi quotati in borsa. Diciamo, deve essere però una scelta consapevole e cosciente. Chi vuole la consulenza la paga, ma la paga a prezzi visibili sul mercato, può fare dei raffronti, può decidere chi è più bravo, chi costa meno, a seconda delle proprie inclinazioni, e non si becca, come dire, dei costi infilati all'interno di prodotti in modo opaco e abbastanza oscuro per il risparmiatore. Al termine del tuo articolo tu invocavi un intervento del governo, e questo è un punto delicato, però, perché sì, che la politica entri sulle strutture di remunerazione e di prezzo dei prodotti è ovviamente molto delicato. Infatti il tuo post aveva un po' di osservazioni nel dibattito pubblico aperto dal tuo post, in cui dei professionisti delle reti dicevano: ma guardate che in realtà che i due terzi della remunerazione lorda sia il costo di retrocessione, cioè quello che va direttamente al collocatore, ma in realtà qui il collocatore fa una vitagrama e non è che in cassa gli resti chissà quanto. Eppure, siccome quei due terzi del costo di retrocessione sono proprio il più del problema, allora come si fa a immaginare un intervento alla Obama, che è proprio questo su cui interviene negli Stati Uniti, in Italia, che sia però rispettoso anche della libertà delle reti, dei collocatori, delle banche, delle imprese, insomma dei soggetti attivi che raccolgono? Ma io credo che l'intervento debba essere un intervento di struttura, non volto a calmierare, certo, direttamente, esatto, perché quello non ha assolutamente senso. Cioè, un intervento di struttura significa, e questo già lo sta, come dire, in prospettiva verrà con questa normativa europea che si chiama MiFID 2, che verrà recepita in Italia, che sta, come facilmente intuibile, trovando enormi resistenze da parte, appunto, degli attuali collocatori, che sarebbero comunque messi in difficoltà, evidentemente. Vivono dell'asimmetria informativa, quindi nel momento in cui c'è una normativa che dice tu devi dire chiaramente quanto è il costo di produzione e quanto è il costo di vendita, è chiaro che fanno resistenza. Quindi innanzitutto una normativa, cioè recepire la normativa europea in modo tale che sia chiaro qual è la struttura, chiaro qual è la struttura del costo di un prodotto finanziario, così che il risparmiatore possa decidere autonomamente e consapevolmente. A questo punto il libero arbitrio aiuta sempre. Poi un'altra cosa è in generale un intervento verso il risparmio, quindi pensate che risparmiare questi costi commissionari può voler dire avere delle performance migliori e un capitale accumulato più elevato. Se pensate al risparmio pensionistico, questo è estremamente importante. Quindi ecco, un intervento che dia massima chiarezza, faccia massima chiarezza su questo punto e stimoli il risparmio a lungo termine degli italiani, sia volto alla previdenza integrativa, stiamo parlando ovviamente, sia anche a investimenti un pochino più locali, quindi destinati al nostro paese, e ci sono mille soluzioni che si possono voler certo. L'ingegneria finanziaria è piena di creatività. Vedremo se la politica, che mi pare abbia tutt'altri problemi, sarà capace di un intervento di questo genere. Io ho i miei dubbi, visto che si sta pensando tardi e male per non aver voluto accedere ai tempi di Monte di Letta ai programmi europei di sostegno alle banche. Ora che è esploso i 12 punti di credito deteriorati delle banche, si pensa a una banca che servirebbe oggi. Purtroppo io divento contrario, perché volevo quell'intervento europeo all'epoca, non mi hanno dato retta. Oggi sarebbe solo un aiuto alle banche che non hanno fatto aumenti di capitale, quindi lo considererei molto molto sbagliato. Io spero che chi ha ascoltato abbia capito. Guardate che se risparmiate l'1,3% dei costi di retrocessione, il conto l'ha fatto Raffaele Zente, su 50.000 euro di risparmio, guardate che in 10 anni voi guadagnereste 7.000 euro di capitale in più. Capite che sono tanti soldi su 50.000 euro in 10 anni, 7.000 euro di differenza. Dovete essere intelligenti e farvi i conti, oppure chiedere una consulenza a parte, ben remunerata, ma a parte rispetto ai costi impliciti che non vedete, e scegliete meglio le banche. Guardate il valore delle banche, il prezzo dell'azione se quotata rispetto ai valori di libro, perché ci sono alcuni tipo in vendita che se beleggiano su 1,3, 1,4. Sappiate un po' essere infedeli alle banche con la testa. Comunque, grazie a Raffaele Zenti, buon festa della Repubblica a tutti, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.